Se un uomo cammina per strada con un mazzo di fiori in mano, le donne gli sorridono. Questa è una cosa di cui mi ero già accorto tempo fa. Ieri però ci ho fatto attenzione. Non saprei dire il perché, però è così. Fateci caso. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Fabri Fibra è tanta roba, tanta roba, para tanta roba. Ieri è nata praticamente una nuova rubrica, senza nemmeno volerlo. Cose che detesto e lo dico. Siete tutti quanti invitati a partecipare. 349-238-6666, oppure il profilo che è Matteo Caccia, io sono qui, ma anche la mail. Io sono qui, @radio24.it. Ieri era questa qua, è Fabri Fibra tanta roba. Fabri Fibra è tanta roba, tanta roba, tanta roba. Cioè non è Fabri Fibra, è l'espressione tanta roba. Oggi ce n'è un'altra e devo dire che purtroppo l'ho proprio letta sul profilo Facebook del programma, quindi è anche un po' colpa vostra. Ed è quelli che sui messaggi scrivono la risatina. Presente? Sia vale per tutto, l'SMS, la mail, qualsiasi roba sia scritta. Probabilmente per fare capire che è una battuta o che uno sta alleggerendo quello che sta dicendo, si scrive ha ha ha ha ha, con una serie di A e di H in mezzo. Allora, o sei Enrico Mentana che fa le battute e ride da solo, oppure non serve che ridi, giusto? Perché se ho detto una roba divertente e tu mi stai rispondendo, immagino che tu stia ridendo. Tanto tanto la faccina lì, come si chiama? Emotion, emoticons, grazie Laura, emotion. Tanto tanto la faccina, ma ha, ha, ha, ha, proprio no, eh. Fabri Fibra è tanta roba, tanta roba, tanta roba. 800240024 349-238-6666. Buongiorno a tutti, io sono Matteo Caccia, questo è Io sono qui, proprio perché io sono qui. Ma non è di quelli che scrivono sui messaggi. Ringrazio tra l'altro quello che pronti via me l'ha subito mandato al 349-238-6666. Non è di questo oggi che parliamo, perché oggi vorrei raccontare questa storia che mi è capitata ieri e che poi in realtà mi capita tutti i giorni e non capita solo a me, che sono i piccoli piaceri della vita. Avete presente quelle piccole cose che uno non nemmeno riconosce, però se ci fai caso un pochettino te ne accorgi. C'è chiaramente sempre chi le ha dette meglio di me sicuramente, ma meglio di altri, e in questo caso c'è una piccola poesia breve ma divertentissima per come la leggeva la mia insegnante di recitazione quando facevo la scuola, che è I piaceri di Bertolt Brecht. Paolino, potresti abbassarmi la base, perché questo è un momento molto aulico. È proprio una descrizione di tutti i piccoli piaceri della vita. Si chiama Piaceri non a caso, e la mia un tempo insegnante Marisa Fabri la leggeva in questo modo: il primo sguardo dalla finestra al mattino, il vecchio libro ritrovato, volti entusiasti, neve, il mutare delle stagioni, il giornale, il cane, la dialettica. Sì, Bonini, basta così, vado liscio. Fare la doccia, nuotare, musica antica, era qua che lei dava il meglio. Scarpe comode, capire, musica moderna, scrivere, piantare, viaggiare, cantare, essere gentili. 11.03, 14 settembre 2010. Sono in Viale Col di Lana a Milano. Sono sceso dal tram a una fermata che non era la mia, perché sto seguendo una ragazza che ho visto sul tram, che non conosco. C'è stato una specie di incrocio di sguardi, una roba che è stato proprio un attimo, e lei mi ha sorriso. Aveva un sorriso magnifico, con la faccia un po' furba, i denti davanti leggermente separati, i capelli biondi, gli occhi verdi. Adesso io sono tipo a centinaia di metri da lei, lei sta camminando, ha addosso un paio di jeans, una camicetta bianca e ha una borsa a tracolla. Potrebbe andare al lavoro, all'università, a casa. Non so per quanto ancora la seguirò, non voglio diventare molesto, però è giusto per così, per vedere se è il solito innamoramento da due minuti sul tram, oppure se non mi faccio investire. Continuano a essere le 11.04, il 14 settembre 2010. Oggi invece è il 15 di settembre 2010, sono le 16.12 minuti, e questo è quel piccolo piacere in più che Brecht purtroppo si era dimenticato di elencare, e Marisa Fabri con lui. I piaceri. Basta, basta. un omaggio però alla grande Marisa Fabbri. Dicevamo, i piccoli piaceri, tra i piccoli piaceri quotidiani c'è questo qua, cioè è quel piccolo innamoramento che ti capita anche più di una volta al giorno, ti capita dal panettiere, al bar, quella ragazza che vedi sul tram, appunto non a caso, quel tizio che incontri in stazione. Ci sono anche quelli cumulativi, cioè valgono anche quelli che tutte le mattine sul treno vedi quel tizio che c'ha quell'aria strana che non capisci perché ma ti piace. Vale anche quello, fa parte dei piccoli innamoramenti quotidiani. Capitano molto agli uomini, ma sono convinto che capitino anche alle donne. 80024 0024 349 238 6666. Domenico, ad esempio, su Facebook mi scrive: hai fatto bene a dedicare uno spazio a questi innamoramenti one shot o big, come usiamo dire da noi. Da noi chi, Domenico? Che non è il classico guardare e restare affascinati da una donna che incontri per strada. Bravo, Domenico. È molto di più. Uno sguardo reciproco, intenso, anche al bar mentre prendi un caffè. Senti il cuore sobbalzare, ti riempie intensamente quell'attimo, ma sai già che finisce là. Però ti fa capire che il tuo cuore è ancora vivo, che pulsa e quindi ha una sua utilità. 80024 0024 349 238 6666. Chiara, ad esempio. Quest'estate, Chiara però è un po' dimessa. Chiara, su, sempre su, stai bella su. Quest'estate un ragazzo mi ha fermato e mi ha detto che mi trovava bella. Io non gli ho creduto, ovviamente, perché ti pare, no? Se lo dice, chissà come mai. Ma sono contenta che l'abbia fatto. No, non l'ho più visto. Poi ero a Lione. Che vuol dire poi ero a Lione? 80024 0024 349 238 6666. Un altro messaggio che è arrivato questa mattina da Alessandro, che dice: proprio questa mattina in autobus, incredibili sguardi con una donna, mulatta, sorrisi ed il piede. Vabbè, ma il piede cosa? Alessandro, parliamone, cioè se sei sul tram e sei vicino magari il piede si tocca, non per caso, eh? Però sono quelle piccole gioie della giornata, il piccolo innamoramento quotidiano, quello che un pochettino ti fa capire che alla fine l'aria è fresca e si sta bene nonostante tutto. 80024 0024 349 238 6666. Donne, anche uomini, ma soprattutto donne, direi. 80024 0024 349 238 6666. È buona norma, quando si sta ospiti da qualcuno, arrivare con qualcosa, come dicevamo ieri. Una bottiglia di vino, un libro, un dolce. Se l'ospite è una donna, un bel mazzo di fiori. Come dicevo ieri, da oggi sono ospite a casa di Simona, un'amica che ha appena divorziato e ha insistito perché stessi qualche giorno da lei, che tanto aveva spazio e voglia di avere qualcuno in casa. Ieri dopo il programma mi sono preparato la valigia e mentre andavo da lei a piedi mi sono fermato a prenderle un mazzo di fiori. A Milano ci sono questi piccoli chioschi carichi di fiori colorati. Sono uno dei pochi elementi di colore della città, anche in inverno. Che sono diversi dai negozi dei fioristi, eh? Sono meno ufficiali, sono più economici pure. E forse per il fatto che sono delle bancarelle agli angoli della strada, ti fermi con più facilità a comprare un mazzo di tulipani. È un po' come al mercato, no? Che non è un negozio, e quindi non hai l'esigenza di giustificare subito il motivo per cui sei entrato dicendo cosa vuoi. Puoi prenderti tutto il tempo di guardare, di valutare. E magari puoi anche andartene senza troppi sensi di colpa. Insomma, all'angolo tra via Castelbarco e via Conizugna, qui a Milano, c'è un banchetto gestito da un signore pakistano. I ripiani sono un po' vecchi e arrugginiti, però te ne rendi conto solo la notte, quando lui ha sbaraccato tutto e i ripiani rimangono lì, spogli, legati ad un palo con una catena. Di giorno invece sembrano un'aiuola fatta a scalini, carica di rose, di margherite, di orchidee. Il signore pakistano ha un'età indefinibile, ha il viso sorridente. Se ne sta sempre seduto su uno sgabello a fianco ai fiori e c'è, tutti i giorni, un amico appoggiato ad una bicicletta con cui chiacchiera in una lingua incomprensibile. Che a dire la verità anche il suo italiano è incomprensibile, però non serve altro che un gesto, no? Per indicare quello che vuoi. Non era la prima volta che compravo dei fiori al suo banchetto ed ero indeciso su che cosa scegliere. Lui allora mi ha chiesto per chi era, se era per mamma o per moglie. Io gli ho detto che era una per un'amica. Lui ha sorriso vagamente senza capire cosa intendessi. Ho avuto l'impressione che dalle sue parti non esista l'amicizia tra uomini e donne. C'è stato un attimo di imbarazzo in cui lui ha continuato a sorridere e mi è rimasta la bocca bloccata, una specie di smorfia. Poi ha abbassato gli occhi e ho visto questi mazzetti già pronti, colorati, con sopra scritto 15 euro. Ho indicato quello che aveva più macchie gialle, che il giallo mi piace. E lui ha fatto un cenno con la testa, come a dire: tu sì che hai buon gusto. Ma che poteva anche essere: oh là, mi sono liberato di questo mazzo che non lo compra mai nessuno. Gli ho dato 15 euro. Lui mi ha ringraziato e si è rimesso a parlare con il suo amico della bicicletta. Io ho preso la borsa con una mano, il mazzo di fiori con l'altra e mi sono incamminato. L'aria era tersa e la giornata sembrava avere ancora un sacco di cose da offrire. Se un uomo cammina per strada con un mazzo di fiori in mano, le donne gli sorridono. Questa è una cosa di cui mi ero già accorto tempo fa. Ieri però ci ho fatto attenzione. Dunque, casa di Simona dista 20 minuti di cammino dal chiosco del fioraio pakistano. Erano le 7 di sera. La strada era piena di gente. Non saprei dire quante donne ho incrociato mentre tenevo i fiori in mano, però le racconterò così. La ragazza di 17 anni. È alta e sfrontata. Tiene lo sguardo fisso davanti a sé, perché non ha bisogno di guardare. Sono gli altri a dover guardare lei. Non ha niente da chiedere al mondo, perché il mondo le va incontro e ha le braccia spalancate. Quando incrocia l'uomo con i fiori in mano, non si sofferma a guardare né lui né i fiori, ma un lieve sorriso di diniego le appare sul viso, come a dire: che sfigato. Ha bisogno di portarle dei fiori, perché non è capace di conquistarla. La ragazza di 27 anni. Ha uno sguardo curioso, sembra quasi sorridere, ma forse è solo un modo per non sembrare triste. Non è fidanzata e pensa con rancore al suo ex, con cui ha buttato via gli anni migliori della sua vita e che non valeva la metà di quello che sembrava. Quando incrocia l'uomo con i fiori in mano, sembra divertita. Pensa che a lei i fiori non piacciono, però in fondo sembrano un pensiero carino. La donna di 35 anni. Cammina con decisione, sembra proprio che debba andare da qualche parte e che là abbia qualcosa di importante da fare. Deve aver appena finito un corso di yoga, o di gag, o forse di teatro. Stasera deve uscire con un tizio con cui si è scambiata qualche mail, ma che alla seconda già l'annoiava. Quando incrocia l'uomo con i fiori in mano ha un sussulto, pensa che in fondo se il tizio delle mail arrivasse con un bel mazzo di rose, forse sarebbe pronta a rivalutarlo. La donna di 48 anni. Parla al cellulare, sbuffa. Il marito non è andato a prendere la figlia al tennis e quindi tocca a lei andarci. Lei che non ha mai nemmeno il tempo per una ceretta. C'è un'aria di rimpianto nei suoi occhi, anche se non si capisce per che cosa o per chi. Quando incrocia l'uomo con i fiori in mano, lo guarda con stupore e si ricorda di quando qualcuno li portava a lei e pensa che forse un amante varrebbe la pena anche solo per questo. La donna di 65 anni. Cammina mangiandosi un gelato. Ha i capelli bianchi e gli occhi che guardano all'insù. Pensa che avere del tempo per sé è il regalo più bello che ci si possa fare. Roba che anche Milano sembra più bella. Quando incrocia l'uomo con i fiori in mano gli sorride con gioia e gli dice che la ragazza a cui arriveranno quei fiori ne sarà molto felice. Poi prende il cellulare e chiama suo marito per dirgli che stasera ha proprio voglia di uscire a cena. It's been about 2 months now since I had the dream. The dream itself was more of a nightmare. I was in Superdrug. Il ragazzino che sentite parlare è un ragazzino molto furbo che ha sfruttato esattamente questa storia, quella dei piccoli innamoramenti quotidiani, e l'ha ribaltata a suo piacimento. Lui si è inventato questa cosa, evidentemente. Ha creato un sito, il sito si chiama thegirlofmydreams.co.uk, insomma cercate The Girls of My Dream e lo trovate su Google, che non è quello di cui avevo parlato l'anno scorso, del tizio newyorkese che ha visto una tizia metropolitana, se n'è innamorato. È uno che sostiene di aver avuto un sogno, una specie di incubo, in cui c'erano degli zombie. A un certo punto ha trovato una ragazza nel sogno, l'ha girata ed era magnifica. Si è svegliato e l'ha disegnata. La faccia del disegno è inguardabile. Sembra una ragazzina di 2 anni che ha disegnato la sua compagna di banco. Lui però ha detto, ha creato sul sito proprio un appello: se conoscete una ragazza così, e vi assicuro, andate a vederla, è proprio brutta o comunque incomprensibile, un identikit improbabile, o se siete voi, mandatemi una foto ed un'email. Quando rilasciava l'intervista che sentivamo prima erano passati 6 mesi, aveva ricevuto 2700 foto e più di 1 milione di mail di ragazze che si proponevano. È una bella storia, vorrei capire come è andata a finire, ma soprattutto mi sembra che lui sia uno molto molto furbo. 800240024 349-238-6666 però, perché oggi si parla proprio di quei piccoli piaceri, di quei piccoli innamoramenti quotidiani che ti sollevano la giornata. E mi fa piacere che Paolo scriva: meno male, pensavo di essere malato, viva l'innamoramento quotidiano. L'altro giorno al bar entra una ragazza bellissima, con i capelli corvini e gli occhi azzurri. Senza dirle nulla le ho pagato il caffè. Non saprò mai il suo nome. Matteo da Salerno. Matteo, raccontaci com'è andata. 80024 0024 oppure 349-238-6666. E ancora, se ti ci guardi tutta la serata mentre balli e poi ok, aspetta un attimo, traduco, perché se immagino con la ragazza ti ci guardi tutta la serata mentre balli e poi arriva un tizio bassino con pochi capelli e ci si mette a parlare al posto tuo, anche allora l'aria è fresca. Antonio, no, l'aria non è fresca, è solo che sei un ciula, diciamo. Esiste anche un profilo Facebook, me l'ha linkato prima un'ascoltatrice, Maddi o Maddalena, sul mio di profilo Facebook. Si chiama Innamorarsi di sconosciuti 4-5 volte al giorno. Come tutte le cose di Facebook, ovviamente lascia il tempo che trova, perché dice tutto il contrario di tutto. Però vi dico solo che questo sito, che è credo un fan page, una roba del genere, ha oltre 15.500 fan, quindi vuol dire che insomma qualcosa accade quando sul tram incontri una donna o un uomo. 80024 0024, perché oggi vorrei sentire invece il vostro piccolo innamoramento quotidiano. 349-238-6666, ecco, ad esempio, per quale motivo è poco credibile Facebook? Perché se tu guardi su questa roba qua, innamorarsi di sconosciuti 4-5 volte al giorno, tu trovi citazioni per la maggior parte di Baricco. Quanto ci ha pigliato in giro Baricco. Io lo adoravo, con le maniche della camicia fatte su durante Pickwick. E tu te lo stai a sentire Baricco, è quella la sua forza. Ci ho vissuto un'eternità dove gli altri vedevano attimi. City, Alessandro Baricco. Aveva quella bellezza di cui solo i vinti sono capaci. E la limpidezza delle cose deboli e la solitudine perfetta di ciò che si è perduto. Alessandro! Alessandro! 800240024, il vostro piccolo innamoramento quotidiano, che sia stamattina, che sia ieri. 349-238-6666. Mentre quanti si innamoreranno della borsa quotidianamente? Secondo me, parecchi. Allora, credo che di essere in onda. Pare che sia così. Sono le 16.33, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e io sono qui. C'è qualche problemino tecnico, c'è addirittura il capo, attenzione, c'è il capo dei tecnici, quindi vuol dire che veramente la cosa è grossa. Arrivano i messaggi intanto, anche se non ci sono delle basi sotto, io credo che voi siate all'ascolto. 349-238-6666 oppure 80024-0024. Quando corro sul lago, sul lungo lago di Como, incontro lei che va in direzione opposta. È bellissima e ogni volta è un balzo al cuore. Alberto da Como. Lavoro al bar, mi innamoro 2-3 volte al giorno, ma non dirlo alla mia ragazza, potrebbe offendersi. E fino a qua andava tutto bene, però poi nel messaggio lui ha aggiunto ha ha ha ha. Credo che sia, spero quantomeno, che sia uno scherzo. Ho veduto una rossa 10 anni fa e me la sogno ancora. A morte la timidezza. Pier, le telefonate ce le abbiamo, perfetto, quelle ce le abbiamo, perché è arrivato un messaggio anche prima che diceva: io ho seguito, come te, una ragazza scendendo dal treno in una stazione che non era la mia. L'ho fermata, mi sono presentato facendomi coraggio, la risposta è stata: sono sposata e ho una bambina. Ho riso per tutta la giornata. Pronto Alberto? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene. Quando è successa esattamente questa cosa? È successo l'anno scorso. E tu dove andavi? Io andavo come tutti i giorni dal mio paese, che è Rovellasca, fino a Milano. Scusa, qual è il tuo paese? Rovellasca. Rovellasca. Un paese vicino a Saronno. Ok. A Milano e Como. Che per i non udenti è più o meno di quanti abitanti? Va, sarà 8.000 abitanti. Ok, che lavoro fai Alberto? Io sono architetto. Ma come mai sei? Ma c'è qualcosa che non va però Alberto, dimmi la verità. In che senso? Ti sento un po' abbattuto. No, è che sento il ritorno della mia voce, quindi sono tornato. Allora fai una cosa, quando senti il ritorno della voce, stai su, stai bello su, che passa, okay. Che sicuramente passa. Allora, tu andavi al lavoro come tutti i giorni, fai l'architetto, quanti anni c'hai? Io ho 28 ora. E ancora manca uno straccio di fidanzata, Alberto? No, ora sì. Ora sì. All'epoca ero un po' in seguito a una debacle casata appunto da un successo amoroso lasciato. Che un po' ti ha lasciato lo strascico, Alberto, dici esatto. La verità. Se lo accusi ancora tutto. Non ora. Va tutto benissimo, tutto perfetto. Bravo. E quindi pensa quando non va bene allora. Alberto, scusami, ma quindi tu eri un po' in caccia oppure no? Ero in caccia, diciamo che da tempo tutte le mattine vedevo insieme a me, prendere il treno, una ragazza nella mia stazione, una ragazza carina, che trovava interessante. Com'era fatta? Era non tanto alta, magra, capelli corti, neri, insomma un po' a scopettina. Un po', scusami? A scopettina, nel senso fino a... sotto il mento tagliato. Ah, i capelli a scopettina. Parlava di capelli. Aspetta che mi tolgo il maglione. E qua, ragazzi, siamo sempre su Radio 24. Cioè, non è che potete. Ok. Poi dicevamo, Alberto, com'è che l'hai fermata esattamente? Beh, niente, mi sono automotivato per del tempo. Solo che il fatto che scendesse. Scusami, ti sei automotivato? Sì, tutti i giorni. Quando insomma la mattina ero un po' rincoglionito, dicevo, dai, ce la faccio, ma quelle volte dicevo, no, dai, mi sento ridicolo. Poi scendevo in una stazione che non era la mia, io scendevo quella dopo, quindi sì. Dicevo, ma perché devo scendere, poi qua dove vado? Quindi mi sono fermato il giorno prima, penso, la premeditazione. Sì. Il giorno prima ho lasciato la bicicletta che ho utilizzato tutti i giorni per andare al lavoro nella stazione in cui lei scendeva, quindi ero obbligato a scendere. Ok, cioè c'era della strategia. Dimmi però l'approccio qual è stato. Ok, sono sceso, l'ho seguita, gli ho detto, beh, ormai sono qua, vado, la fermo, in mezzo a mente a tutta la gente che andava al lavoro. Si gira, mi guarda un po', cazzo vuole, vabbè. Mi presento, ciao, sono Alberto, lei mi guarda, quando ha capito in 2 nanosecondi qual era la tua intenzione, l'intento mio, mi guarda e mi fa, guarda, sono sposata e ho una bimba. Vabbè. Io l'ho guardata, gli ho dato la pacca sulla spalla, gli faccio ciao, mi sono girato e me ne sono andato. Le hai dato anche una pacca sulla spalla, Alberto, guarda. A lei? sì, no. E io ho imparato. Senti, che la tua fidanzata di ora come l'hai conosciuta invece? È una mia amica di vecchia data, una mia compagna d'università. Okay. Sei andato sul sicuro, dopo quella tramvata lì hai deciso che pacche sulle spalle ne avevi già dato. Alberto, esatto. Mi raccomando però, su, Sì, no, ma tranquillo. Ok, buona giornata, ciao, grazie. Ciao, Alberto. Andiamo a Roma da Danilo. Pronto, Danilo? Ciao, Matteo. Ciao, come va? Tutto bene. Cos'è questa? Dove sei esattamente, in ufficio? No, veramente ho l'auricolare, se vuoi... No, tranquillo, si sente bene. Raccontami, okay. Raccontami il tuo innamoramento quotidiano. Niente, proprio questa mattina l'ho vista. Ormai penso sia un mesetto che ci troviamo sempre la mattina, in pausa pranzo e la sera quando torno a casa. Mm-hmm. Immagino lei, praticamente la incontro vicino casa, perché io per andare al parcheggio da casa prendo la macchina sì. E puntualmente la mattina la vedo che arriva in direzione contraria. E poi come è fatta? Quanto... Che tipa è? Beh, un po' più alta di me, riccia, carina, magra. Insomma. Quanti anni hai tu, Danilo? Quanti anni hai? 30. E lei? Penso più o meno all'età mia, non è proprio una ragazzina. Quindi. Ma ci hai parlato, quindi? No, non ci ho parlato, solo che una volta ho notato il fatto che quando mi ha visto, perché ormai ci guardiamo ogni tanto, insomma, gioco di sguardo. Ormai sarà un tormento. Infatti una volta ho guardato l'orologio, dopo che ha guardato a me, forse ha detto questo sta in ritardo, pure questa mattina c'è questo qui che mi rompe le scatole, non lo so. Ah, tu, però potrebbe essere una doppia valenza effettivamente, cioè potrebbe effetti, essere come un messaggio. Poi a me la timidezza frega, perché in effetti potrei anche fermarla, però. Poi mi risponde come quest'altro ragazzo, sono sposato a un bambino. Poi no, adesso però ti prego, non farti inibire dall'ascoltatore di prima, che era un po' giù. Tu Danilo, stai su anche tu. Cosa fai Danilo nella vita? Impiegato d'ufficio. Che tipo di lavoro è? Cioè dove? Società di informatica. Quindi diciamo, allora per cui qua lasciamo stare. Quali sono le tue cartucce da sparare, Danilo? La simpatia? È una battuta? Cioè, hai detto che sei timido prima. Vabbè, insomma, non è che sia un grande Latin lover, quindi però... Vabbè, ma hai avuto qualche fidanzata prima, però sì, incontrata però, con un lavorio devastante. Sono un po' solo, quindi diciamo che la tentazione di fermarla ci sarebbe, però sai, poi un po' ti frega un po' il carattere. Michele, facciamo così, prendi un impegno. Danilo, scusami, prendi questo impegno. Tu decidi che la prossima volta le dici qualcosa, poi mi chiami e mi racconti com'è andata. Ok, va bene. Okay. Va bene. Su Danilo, ciao, ciao, buona giornata. Ciao. Niente ragazzi, oggi proprio li sento un po' come le basi di Radio 24, un po' giù oggi. Michele da Milano, pronto Michele? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene. Io sì, me la cavo. Senti, tu ma sei italiano Michele? No, sono moldavo, Matteo. Ma Michele è un nome moldavo? Diciamo di no. In moldavo sarebbe come era prima Mikhail Gorbachev. Mikhail. Però qua mi chiamano tutti Michele, per cui sono così. Che lavoro fai, Michele, qui a Milano? Faccio l'autista, Matteo. E quanti anni c'hai? C'ho 29 anni. Da quant'è che sei qua? Dal 2001. E come ti trovi? Bene. Bene. Senti, dimmi invece, tu ti sei innamorato stamattina di qualcuno? No, proprio un quarto d'ora fa. Oh, guarda. Dove? A Varese. Ma tu eri a Varese per lavoro? Sì, ero a Varese per lavoro, dovevo effettuare un scarico e niente. Passavo per una stradina lì, ho visto una ragazza, ha girato la testa. Io quando l'ho vista ovviamente ho frenato, andavo molto più piano. Cioè, ha inchiodato col furgone? No, sì, con un camion più grosso. Ah, c'hai un camion proprio? Sì, c'ho un telonato. Bello, niente, il telonato, guarda, ho una passione per il telonato, per l'auto, come si chiama, il bilico, quel che è quello il più bilico, lungo? Io c'ho il bilico. Tu c'hai un bilico telonato? Sì. Ma quindi è gigante? Sì, è 14 metri. Cioè, quindi questa che vede un camion che inchioda, di 14 metri, che inchioda per lei, tu le cartucce da sparare? Niente, ha girato la testa, mi ha sorriso. Secondo me comunque sti innamoramenti giornalieri sono un recupero di energia. Cioè? Perché una volta che ti passano quell'istante lì, vai su di morale e di forza. Nel senso che tutta l'energia che lo perdi durante la giornata, secondo me è un recupero. È un po' come una lattina di Coca-Cola alla sì, sera più, che ti dà. Sì, più o meno, sì, Matteo. Michele, grazie mille. Senti, tu ascolti sempre Radio 24? Sempre. Sempre. Qual è la cosa che ti piace di più di Radio 24? Guarda, dimmi la verità, dimmi la verità. Guarda, mi piace tutto. Di più mi piace quando alle otto e mezzo ci sono tutti i titoli dei giornali. Ah, ok. Perché tu sei sull'informazione, Michele. Sì, sì. Grazie. Infatti ascolto perché avete un modo di esprimere, di trasmettere informazioni in un modo più reale, diciamo. E io poi. Grazie mille, Michele. Buona giornata. Anche tu. Ciao, grazie, stai bene. Ci abbiamo tempo per un altro? Sì, allora andiamo. Antonio, solo uomini. Antonio da Bologna. Pronto, Antonio? Ciao Matteo, ciao, sono Antonio. Come stai? Beh, abbastanza bene, tu? Anch'io me la cavo. Tu che lavoro, dove sei? In macchina anche allora, tu? Allora, io sono in macchina, ho messo l'auricolare, sono uscito appena dall'azienda perché avevo un gran mal di testa, non ce la facevo più a stare in ufficio. Oh, che cosa fai Antonio nella vita? Sono impiegato alla Fiat Group di Modena. Bravo, ma di dove sei? Non sei di Bologna? No, non sono di Bologna, sono della provincia di Caserta, sì. Ah, ok, perfetto. Allora, io ho 5 anni di scuola, andavo a Caserta nel treno, vedevo sempre al mio ritorno dalla scuola una ragazza bellissima, sì, talmente bella che io la guardavo tutto il viaggio, lei mi guardava, io la guardavo, ogni tanto lei mi sorrideva, ma io praticamente... Quindi c'era della ciccia lì, Antonio? Ma sì, ma lei era tanto più grande di me, io ero piccolino, avevo neanche 17 anni, lei avrà avuto intorno ai 27-28 anni, ci guardavamo tutto il viaggio. E io sognavo notte e giorno le cose che avrei voluto dirgli, le carezze, le cose che avrei voluto fare. Dimmi una cosa che avresti voluto dirgli, Antonio. Guarda, ti mangerei tutto quanto. Ho capito, però qui c'è un misto di casertano e modenese, sì, che mi sa che è un mix esplosivo, Antonio. Ma la cosa bella è che l'ultimo anno di scuola, uno degli ultimi giorni che andavo, sì, per paura di non vederla più, allora ho avuto il coraggio, tutto impacciato, tutto rosso, di avvicinarmi a lei. Ah. Allora lei, la prima cosa, allora io mi sono avvicinato e ho detto, ti posso dire una cosa? Lei mi fa, ah, finalmente ti sei degnato di venirmi vicino. Bene, ma... allora lì mi sono fuso. E poi io ho detto, guarda, sei veramente bellissima, non ho parole per esprimermi per quanto sei bella. Mm. Lei mi guarda e mi fa, amore mio, le ragazze belle fanno le cose brutte. E non l'ho più vista. E la cosa brutta è che non ti ha più visto. Antonio, grazie mille, fai buon viaggio. Grazie, ciao, ciao, alla prossima, ciao. Ciao. 349-238-6666, anche in coda proprio. Ma una donna, che ci dica che cosa si aspetta da un uomo che tutti i giorni la guarda e con cui incrocia lo sguardo. Laura Faggin è di là, adesso lo so che me lo dirà lei qualcosa. 349-238-6666. Ma perché non cercate di fare incontrare queste anime timide? Quello è un altro programma che faremo a breve e che si chiama Agenzia Matrimoniale. L'ho vista, innamoramento da 5 minuti. Ho chiesto il numero e ci sono pure uscito, scaricato dopo il primo appuntamento. Michele. E poi ancora Dennis o Demis di Padova. Sono in furgone adesso e mi sono appena innamorato di una ragazza bellissima che camminava sicura e orgogliosa di far star bene delle persone. Cosa? Una ragazza bellissima che camminava sicura e orgogliosa di far star bene delle persone che incrocia. Insomma, direi che la filosofia di tutto ciò è, come diceva Tiziano Bonini giustamente, è meglio non provarci più. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie a Tiziano Bonini, a Laura Faggin che ha sostituito Vittoria Mussini che è in vacanza con i suoi genitori a Madrid, giusto per dire tutto come al solito. Grazie a Paolino Corleone che è stato di là nonostante tutto quello che è successo oggi in regia. Ringrazio anche Alessandro Genovesi. Sono le 16:45, io sono Matteo Caccia e quello che ho fatto oggi è stato che ho cambiato casa, ho preso una pastiglia per il mal di testa, ho comprato dei fiori e li ho regalati. Ho pensato che semplicemente le cose belle a volte accadono e a volte no. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?